America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Milano, Mario Platero. Nel post G20 di Antalya sono ancora in Italia e vorrei partire da una notizia legata agli attacchi a Parigi. La Camera dei rappresentanti a Washington ha approvato ieri un disegno di legge per rendere molto più duri i controlli sui rifugiati siriani che nei prossimi mesi arriveranno negli Stati Uniti, come previsto dal piano di Barack Obama. E a questo punto il braccio di ferro su valori, aperture, paure, chiusure in America continua. Problema per Obama, che ha promesso il veto se la legge passerà anche in Senato? Beh, il problema c'è perché circa 50 democratici alla Camera hanno votato a favore. Vedremo. Oggi però, come ieri, non voglio parlarvi di reazioni all'attacco a Parigi, ma di economia. Vi ho già raccontato nella puntata di ieri dei progetti infrastrutturali, del messaggio del G20 per incoraggiarli, e vi ho raccontato del progetto di un'azienda italiana, Salini Impregilo, che proprio in quel settore ha fatto un acquisto importante in America. Oggi vi parlo di un'altra necessità economica espressa dal G20 di Antalya, a rilanciare la domanda, dunque l'occupazione, dunque gli investimenti, soprattutto nel settore ad alto contenuto tecnologico, cioè in quel settore di economia digitale, nel quale noi purtroppo ci troviamo indietro. E dunque vi racconto un'altra storia concreta partendo da queste dichiarazioni. Sentiamo. And it's fantastic to see technology broadly get diffused throughout the globe. Ecco, chi parla, lo avete sentito, entusiasta, motivato, è l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella. Nadella ha avuto il suo debutto europeo, è passato in Italia, lo abbiamo intervistato come giornale qui da New York la settimana scorsa e ci aveva detto, cito: non vedo l'ora di arrivare a Roma per capire come la nostra missione di aiutare persone e organizzazioni a ottenere di più si traduca in realtà e si concretizzi in Italia. Ebbene, da dove è partito Nadella? Che cosa ha annunciato? Ha annunciato un progetto per aiutare le startup digitali italiane con un nome in codice, Grow It Up, cioè crescete, fatele crescere. È un'iniziativa questa in partnership con Fondazione Cariplo e Invitalia che selezionerà le più promettenti startup digitali, high-tech e software italiane per aiutarle a costruire modelli di business e disegnare strategie internazionali, a trovare capitali necessari per il successo, per eliminare insomma quegli ostacoli che oggi da noi nel nostro paese si pongono davanti a giovani innovatori e imprenditori italiani che vorrebbero fare di più e ostacoli che ci hanno tenuto molto indietro rispetto ai nostri concorrenti europei. In fact, in Italy, for me, that's one of the first questions I even ask our local team whenever I visit, which is, what is the contribution we are making to the local economy, the local startups, the local ISVs, the local partners? Ecco, Nadella che continua a spiegare a questo pubblico qual è l'idea. L'idea è di creare un iperacceleratore di startup nel settore digitale, software, e non di creare un incubatore, ma semmai un'iniziativa che consente di fare da intermediario fra incubatori, finanziatori e piccole aziende e imprenditori. Il progetto è strutturato in due fasi. Nella prima fase vengono scelte un centinaio di società promettenti. Queste aziende saranno ammesse a un vero e proprio campus, una sede fisica che sarà a Milano, che è stata messa a disposizione da Cariplo attraverso Cariplo Factory. E in questo campus ci sarà la disponibilità di avere accesso a piattaforme digitali su cui sperimentare, ma ci saranno soprattutto degli incontri ai quali parteciperanno esperti di Microsoft e di grandi aziende italiane con l'identificazione di 5 figure professionali che possono aiutare le startup, e cioè il Chief Marketing Officer, il capo del marketing, responsabile di vendite, il Technology Officer, quindi l'esperto di alta tecnologia, di software, di sviluppo di codici, il direttore delle risorse umane e il direttore finanziario. La seconda tappa è poi il salto operativo, cioè si fa una scrematura, ci sarà un consiglio composto di esperti che selezionerà una decina di aziende al termine del primo anno di attività, poi da lì in avanti le 10 aziende invece saranno selezionate ogni 6 mesi, quindi ci sarà una accelerazione e queste diventeranno candidate a ricevere degli investimenti. Ecco, il progetto mi sembra interessante, vediamo però dove va a cadere. Of course now going forward, We have to express this mission, this sensibility in a changing world, in a changing technological paradigm. Ecco, Nadella, lo avete sentito, qui è molto ottimista, parla delle prospettive delle aziende italiane, delle startup italiane, che sono una gran quantità. Allora, sapete quante sono le startup digitali italiane? 4.500, di cui 2.000 nell'ultimo biennio. Sembrerebbe un numero elevatissimo, se non fosse che in Germania, in Francia, in Gran Bretagna, la cifra corrispondente è fra le 30 e 40.000 startup, 10 volte tanto. E questo ci dice che cosa? Il potenziale lo abbiamo. A New York, tra l'altro, in questi giorni si è aperta all'Istituto Italiano di Cultura una mostra dedicata alla creatività italiana nel settore high-tech e informatico, e fra i nomi ci sono quelli storici, quello di Federico Faggini, classe 1941, che ha inventato il primo microprocessore, Andrew Viterbi, classe 1935, che ha ideato un algoritmo chiave per la telefonia cellulare, Pier Giorgio Perotto, 1930, purtroppo mancato nel 2002, che ha inventato per l'Olivetti, pensate, il primo PC portatile e il leggendario P101 nel 1964. Ecco, il risultato: dietro Faggini e Viterbi si sono sviluppati in America rispettivamente Intel e Qualcomm, due colossi del settore. Ma l'Olivetti, che pure era una delle punte di diamante per la creatività industriale italiana, ha perso la battaglia coi PC, non ha mai potuto cavalcare l'idea innovativa di Perotto, è rimasta indietro un po' con la macchina da scrivere, poi l'ha abbandonata, ha trasferito degli impianti in Messico, ma quando ha cominciato a fare PC ormai era troppo tardi, quindi è stato fatto tardi e male. La morale è semplice: abbiamo i cervelli e la creatività, aggiungo, abbiamo le università e i centri di ricerca, abbiamo gli imprenditori, ma non riusciamo a tradurre il nostro vantaggio potenziale high tech in un mercato globale. Per farlo, Viterbi, che inizialmente era venuto tra l'altro in America per persecuzioni razziali, e Faggin, ma potrei raccontarvi mille altre storie, sono venuti in America. E dunque torno alle start-up. Per colmare il gap fra le 4.500 che noi abbiamo e le 40.000 della Germania, non basterà questa iniziativa di cui vi ho parlato di Microsoft. Ci vorrà uno sforzo culturale collettivo di mercato, università, banche, venture capitalist, ma soprattutto vostro, lo sforzo del cittadino comune per aprirci al rischio implicito nell'avventura imprenditoriale all'avanguardia. E, diciamolo, Cristoforo Colombo, Marco Polo, Amerigo Vespucci erano italiani. Il patrimonio genetico per esplorare la nuova frontiera lo abbiamo. Cerchiamo di recuperare, please, con Growth Up, che sicuramente servirà, ma con quello sforzo sistemico che ancora ci manca. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su Ameria24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato così di questa frustata che ci è arrivata da Microsoft, Fondazione Italia, Invitalia, per cercare di dare un po' una scossa alle start-up e alle nuove iniziative imprenditoriali. E dunque raccogliamo l'appello. La canzone ideale, secondo me, è degli Arcade Fire, Wake Up! Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!